Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È il terzo giorno che chi mi ascolta fedelmente deve sottoporsi a questa terapia della supposta culturale quotidiana, che consiste nell'avere la riproposizione garrula e subdola di una puntata già andata in onda, una cosiddetta replica, che però viene vivificata, dignificata, restaurata, riciclata, ristrutturata da un ampio, profondo, dettagliato e sicuramente corroborante commento del conduttore che improvvisamente l'attualizza, la riporta nella realtà. La supposta culturale di oggi è dedicata all'invasione degli animali selvatici in città. Riaggiorno quanto detto soltanto qualche tempo fa, e voi lo ascolterete divertendovi moltissimo, il fatto che ormai dalle parti di casa mia, che vivo nel quartiere Prati di Roma, girano cinghiali. La sera, invece di andare a passeggio a prendere un gelatino estivo, usciamo a caccia di cinghiali. È bellissimo, perché vedere d'estate le persone con mute di cani, con fucili a pallettoni, a cercare cinghiali intorno a Piazza Mazzini, Viale Angelico, via Cola di Rienzo, è bellissimo. Mi piace vedere questo spettacolo di cacciatori di cinghiali che escono e con mute di cani arrabbiati corrono voilà, dietro i semafori, nei bar, nei luoghi degli aperitivi, dove intanto sbuca velocissimo il cinghiale, imprendibile, e naturalmente fanno tutti finta di sparare, che non si può sparare in città. Fanno boom con la bocca e mirano al cinghiale e si divertono facendo la caccia al cinghiale. Ogni tanto il cinghiale, che ha zanne lunghe acuminate, prende e strappa le mutande a qualche signora, castra qualche umarel che passa lì e guardava pensando che fosse un cantiere, ma questo fa parte del colore e del folklore cittadino. Altro esempio di invasione di animali selvatici in città è quella delle nutri. Il neosindaco Virginia Raggi ha dato la sua prima testimonianza di prima cittadina, andando a certificare la topaggine invasiva nel quartiere periferico di Roma. Beh, oggi le nutri, che in realtà sono dei grossi toponi, grossi, enormi toponi con un codone da ratto terrificante, con dei dentoni gialli, perché non fanno mai lo sbiancamento dei denti, la pulizia dei denti, oggi sono ovunque. Vedete nutri in fila a Piazza San Pietro ad ascoltare l'Angelus della domenica, vedete nutri che vanno tranquille nuotando di dorso a rana, a delfino lungo il Tevere, vedete nutre in fila in coda nei teatri cittadini, nelle rappresentazioni estive e culturali più approfondite. Quindi è giusto che voi aumentiate e fortificate la vostra cultura di animali selvatici che invadono naturalmente pacificamente. I nostri fratelli animali selvatici non devono essere discriminati, non devono essere allontanati, non bisogna fare un bieco esempio di discriminazione nei confronti delle volpi, delle nutrie, dei lupi, dei cinghiali, dei cavalli imbizzariti che circolano per le nostre città. Ascoltate e prendetevi anche oggi la vostra dose di supposta culturale. Le sentite? Facciamole sentire ancora in sottofondo. Queste sono le volpi. È il verso delle volpi che stanno prendendo d'assalto la città di Roma. Sì, perché a Roma stanno arrivando le volpi, probabilmente in tante altre città d'Italia. Le gattare romane si stanno riorganizzando, diventeranno volpare, le vedrete in giro per le antiche rovine della città con il cartoccetto in mano, con i maccheroni del giorno prima, e daranno da mangiare alle volpi. Le volpi che sono state spodestate dal collo delle signore, perché nessuno più metterebbe un collo di volpe, una pelliccia di volpe, sarebbe preso a sassate per strada, riappaiono vive, non più imbalsamate, per le strade cittadine. Stanno segnalando ovunque volpi. Entrano nei garage, entrano nei condomini, vanno a scartabellare i rifiuti della città, che ormai sono belli apparecchiati alla base dei cassonetti. Avevo già notato delle volpi quando andavo in qualche paesino dell'Abruzzo, mi sembrava strano che arrivassero fino ai centri abitati. Le vedevi la sera come fossero dei gatti, a lontano pensavi qualcosa di mezzo tra il gatto e il cane, e poi vedevi le code e capivi che erano volpi, e stavano lì tranquille, nemmeno si spaventavano. Aprivano i sacchetti della spazzatura, si infilavano nei residui del cibo dei turisti abruzzesi, e in realtà oggi lo fanno a Roma. Oggi per Ponte Milvio, per Roma Nord, per i posti della Movida,